a vedere. Però non si bicchia. Luca, se vuoi un tubo, amico, se ne sai lei a te, almeno si bicchia. Ma lo conto di sempre, va bene, non per me. Sì, va, c'è un pezzo di palo. Ti avevo poco le cose, morbido, duro. Stirati quello dell'asino. Allora, ti accontenta. Sì, ma è tetto che balla, però devi ammazzarlo quando hai proprio in tuo cinto che ci sta la scadere in terra, mi tipo quello che stavo sul cane. Ma vabbè, ma non c'è proprio Guglia, non lo vogliamo sapere. Guarda, hai visto quando se ne intende di mica l'altro, no? Me, Antonio è entrato in barrato, in macellaio, me. Ciao, Antonio, beh, come stai? Bene, sì. Ma potrei stare meglio. Come te mai, Anto? Anto? Oh, dimmi se. Quel discorso che avevamo stasera è stato chiarito. Quel discorso che avevamo stasera è stato... Oh, no, non so se riusciamo a fare la nostra cosa. Sì, era così, non ti preoccupare. Vabbè, ma la fai, eh? H.I. vabbè. Non sento nessuno adesso, perché non scendo a zero. devo avere pazienza. Beh, a me già mi senti, registrato il break, a me mi senti? Sì, ti sento, te ti sento anche a Mario. Non bene bene, però lo sento questo di sotto. Una fase di tutto, avanti, break. Ciao a tutti, Roberto Quadrato. Ciao Roberto, mi hai sentito, avanti Tino. Ciao Roberto, mi ascolti a me, a me non mi ascolta. Ti ho fatto il Tino, Santiago 5, Radio 4. Già va bene, già va bene, se devi segnare anche io già va bene. Ciao Roberto, ben ritratto. Ciao Mario, anche a te. Avanti. Lui. E ma ti volevo dire, ma tu hai quei pannelli che li salti? E lo faccio più uno, così è. Ascolta, vai sul 38, vai, così non disturbiamo. Ehi, prendi il quadrato. Mi è arrivata l'antenna, me l'ha portata oggi il coso, Gianfranco Calcuno. È arrivata? Santo va 5, nuova risetta. E visto, contento sì. Grazie, però ci vediamo un pochino più forte. Prima su casa a me di che è più forte, guardate che mi ascoltano gli altri, non mi frega niente a me. Se qualche volta ha sentito qualcuno basso e non riuscirà a comunicare, solo lì mi dispiace buco. E capa, io stavo scherzando, cavolo, con te non si può scherzare. Io sono stanco di fare tutto il giorno lavoro, quello, l'altro, sono di stanco, ma bisogna muffare. È giusto, guardo dire, se non ci ricordo uno la lì, a fine giornata se li porto. Così, vabbè, a me lo stesso non me ne frega nulla. L'importante è che mi sentano. Sapa, la stessa idea abbiamo, a me non me ne ha fatto nulla, forse ci vogliamo fare la guerra se la facciano gli altri. Appa. Ma oggi bisogna fare l'amore, non la guerra. Infatti no, in un canale non vedi nessuno e non si fa nei barattini, poi viene di sui ruoli. E ricordate che lasciano parlare chi vuol parlare tranquillo. Cappa di positivo. Cappa cappa. Gianni, ti sei sentito? Sono qua, dimmi dove, sto ascoltando. Ciao oh, Gianni, mi hai sentito? Sei già arrivata l'antenna adesso, piano piano cerco di montarla. Ma dove? Come devo girare? Gentilissimo Franco, Gianfranco è stato gentile, me l'ha presa e me l'ha portata in officina. Come giù, ecco la piazza. E tu, adesso devo buttare il palo. L'ho già montata, diciamo premontata, pronto a piazzarla. Devo buttare il palo, adesso vediamo un po'. Perché devo fare uno spostamento del palo della TV. Utilizzare gli agganci dove ci sono le tappe della TV e spostare il palo. Buonasera a tutti, comunque. E buonasera anche a te, ben entrato. E un secondo solo che vado all'interno a chiedere a mia moglie per fare la cena qui. Rientro, dai, stavo solo facendo ascolto e passando, ripassando. Gappa gappa, vai vai, tranquillo. Sei rimasto Mario da salutare? Ma c'è Latino con Luca, ma si sono spostati, dai, poi ci arriveranno qua. Qui sembra Antonello, questo Antonello c'è. Gappa, c'è Antonello con poco. C'è Antonello. E tra poco sarà anche il tuo vicino di casa. Il più forte. Ti darà piga buona, già. Più forte. Diciamo che non è forte, però già, e si fa sentire sbarrato anche lui. Quello che dice da me, Claudio, pensa. Ah, che cosa dobbiamo dire? Allora, lui rimane ancora più vicino di Claudio, tra te e Claudio. È stato di tutti. C'è il muro di Berlino di Carbonazzi e poi c'è il muro della Telonce. È stata Maria di Pisa, non venne pa' nessuno. Chi era Antonello, eri tu? Era lui già, non ti sente perché c'ha il QRM molto alto. Qua arriva a Santiago 7, da dove modula lui? Diciamo la stessa di vecchio. Cappa, chi c'è forte, più forte di Claudio vicino a me? Più forte sarà lui tra un mesetto e spacca le orecchie. Lui di chi sta parlando? Di Antonio, che spacca le orecchie, ce l'avrai vicino di casa. Ma tu lo riserva? No, Pomponio. Ah, scusa. Chi è che sta parlando di me? Oh, chi è che mi sto tenendo sotto olio io? E noi ti mettiamo sotto sale. O al baccalà. a Bufone non ci sono arrivo. Io sono sempre sul serio, io non scherzo mai. Quando pensi che sto scherzando, vuol dire che sono sul serio. Agostino, dimmi, mettimi un tono, dammi un tono, mi metti un bici, quando sei sul serio così me ne accorgo. Oh, comunque ripeto, c'è chi lo mette, lo vulcanizzate, chi non lo mette, chi mette silicone, chi mette vasellina, chi mette nastro, cane un po' di ruggia, dipende. Ognuno è libero di installarla come crede, non lo so, io consiglio sempre di vulcanizzarla, poi... metterci vasellina all'interno non è consigliabile. Quello è un consiglio che do io, vulcanizzatela sempre. Anche si mette la vasellina per un domani smontarla. La vasellina va bene anche per il buco del culo, Antonio. È per quello che la uso, Caruccio, non la metto la vulcanizzante, se no mettici la vasellina, mettitela che io mi metto il vulcanizzante nell'attrezzo e poi ci incontriamo. Caruccio. Sì che c'è la cicottabice, sì che c'è la quattro d'onda, l'importante è trovare il buco giusto. Io c'ho la mezz'onda caricata, c'ho il malo un sotto. Ah, c'è qualcuno che c'è il mazzucca. Ma tu hai in corso la tua però. Come lo becco? Ma lui sei in corso, mi si funziona ancora, tu solo anche con lo stazionale troppo alto se lo puoi avere. Prima di tutto sette milioni. K. Quello lì è la stessa cosa. Quando ti va ogni tanto per dire giusto per non farlo allarmare, magari lo accendi 5 minuti, lo fai scaldare e poi lo rimetti a posto. Ma va a volare il tuo perché? No. Ma perché? Deve scaldare un senso anche se non va a volare, non è stata di trafficazione, non è stata prezzinale. Con 48 ho avuto di più il problema. Beh, perché quello là c'hai meno potenza, ma c'hai anche meno recessione, quelle che molte cose manco le senti, mentre che con quello lì c'hai più trasmissione, ma c'hai anche più recessione e i colpi li prendi. Ah, è normale comunque, in apparecchi così, diciamo, economici è normale, a meno che non sia un apparecchio professionale. No, ma anche gli apparecchi professionali, molti pigliano colpi da tutte le parti. Allora, dipende da quanto sei vicino uno dall'altro, quanta potenza usa uno e quanta potenza usa l'altro. Sarà lei che dice non deve uscire oltre dei limiti, su quel canale dovresti rispettarlo, sono apparato omologato, non è così? Non usare quel tipo di antenne, tutti quanti si trattano di antenna particolare, per cui forse per quello che si fuma. Cappa. Carino, calma, dunque. Sì? Non hai sentito la carina? No, stasera non l'ho sentito. Già si calma. No, a me mi ha dato fastidio perché sono amici e molte volte per un disguido succedono le scintille. Non mi sembrava il caso, va. Comunque già si parleranno e si vedrà, là. Non è che... Mi piace, se si conosce da 30 anni, cioè, per una amicizia per una fesseria del genere, non mi troppo il bus. Capo, e poi per il malacchino, ma la prega un cavolo a me. Mi sembrava durante me che se ne appunti. No, non c'è problema. Io sono appena entrato, non posso dire niente, però mi dispiace, ci sentivo sempre parlare uno con l'altro, molto amici, così, così. Si deve animare a una vetteria, per un'osservazione maldetta o ascoltata male. Sono i disguidi che succedono nella frequenza. La saluta, vinto giù, con l'Adriano che sono attaccato con Claudio, lo stesso. Adriano c'ha il suo carattere, Claudio lo stesso e niente, però Adriano è uno che a parte molte volte come tutti noi facciamo gli spirituali, però Adriano ne sa un bene, ne sa due strisce, non una. Ma cosa è un tecnico Adriano? Cappa, anzi dovrebbe essere un super tecnico, anche se non lo mette in pratica. Ah, veramente in gamba, almeno per come l'ho sentito parlare col Marco, veramente una persona preparata, non è un presuntuoso, è una persona proprio che sta l'hai sulle spalle. E chi? Marco Scotto, è una persona, ne ho sentito parlare anche da altre persone fuori dalla ruota, veramente una persona veramente preparata, e quindi una persona, non è un presuntuoso. Non so cosa dire, solo che quando si ci mette fa miracoli. Io non sto parlando in particolare della persona, perché neanche la conosco, io sto parlando in generale, perché se uno si mette in questa discussione, molte volte uno se ne consiglia, almeno io sul discorso dei malattini sono forse quello meno preparato perché sono appena entrato, però se a me mi chiedete cose di altri argomenti che posso rispondere, sono il primo a darmi le queste risposte. Comunque e ti sei sovramodulato periodo. Ma fatto che mollasse Mario e per dirvi che ero rientrato, sto qua. Stai sbagliando, Roberto. Senza arrabbiarmi, l'ho detto soltanto, mi sono immaginato, mica non so, mi ci mancherebbe. No, ma cava. Niente, ti volevo dire una cosa, posso? Ho un disturbo. Fai ridere. Io devo lucidare una marca, 6 metri, una marca di quelle che hanno 6 metri è grande, e la devo lucidare dentro e fuori. Più o meno quanto ne posso prendere? La cosa è le piante alte, le mura alte o basse, quanto è alta? Alta, sarà alta 3 metri, dai. Fa 3 metri, dai, più o meno. Sì, quando sta? Una barca di 6 metri o altra 3 metri? Ma non so, aspetta, sto sbagliando io, perché sopra un coso, no, sto sbagliando io. Sarà muro, beh, 2 metri, 1,90 metri. Dì una cosa, ma è una barca aperta, dico, dentro, si può camminare tutto dentro, oppure è una pilotina chiusa, c'è tutti dentro? No, è una barca che praticamente ha la cucina sotto, è un coso, un repositorio sotto c'è la cucina, il bagno. Ok, quindi è una pilottina. La marca non lo sa neanche. È una pilottina, no, non la so la marca, non l'ho visto. Comunque c'è la moto del Volvo. Lo pensa, quindi c'è un entrobordo questa marca. Capo, non lo so. Comunque niente. A me lo so che puoi guadagnare 300 euro per le vigaglie, per lucidargliela. Sta cosa la luce, c'è la lucidatrice. E allora? Tutto, c'è tutta la attrezzatura, la forza abrasiva mordente, ma anche la serratura devi dare. No, solo lucidarla, basta. Materiale che lo mette? È lo mongo. La abrasiva è cozzone per attivare. Ah? La abrasiva è cozzone, si dà a lui. No, la lucida, la ballerina la lucido. Sì, la ballerina, la lucidatrice col tampone, cosa vuol dire questa ballerina? La ballerina non deve riguardare. E vabbè, è una storia che si mette per lucidare, dai. Sì, diciamo 300 euro è un prezzo normale, dai. Noi per esempio una macchina chiediamo 80 euro. Ma cazzo, tu devi contare che è grande, non è piccola. Allora se io me la lucidata non fai un risolto la barca mia, ci vuole un po' di lavoro. L'unica cosa che devi fare, se non consiglio, è iniziare da una parte e finire da una parte, non fa brica, se no c'è una gaggata. Poi la faccio una fiancata. Poi la faccio fiancata e poi mi faccio il pezzo di dentro. C'è tutto sopra e poi vado dentro direttamente a finire. Guarda, la fiancata è la cosa più semplice perché è tutto in piano e sono le parti che prendono meno solo sono le parti più lucide. E poi di dentro sono tutte le parti, gli angolini, i bordi, eccetera, eccetera. Dove prende il sole, dove si attimo la sorsiccia. Comunque, 300 euro già un buon prezzo. Me ne ho detto che è poco, ma sarà. Sarà che è poco. Ma l'ho detto. Stato bisognerà per i burro che ti chiedono 500 euro. 500 euro è un prezzo ragionevole perché io ho amici che lo fanno una misura ragione che non con la cifra lì. Infatti ti volevo dire sui 300 euro come prezzo. No, secondo te quanto tempo ci vuole a farla? Secondo te? Facendo magari la media di 6 ore al giorno, 7 ore al giorno. Allora, se c'è una buona lucidatrice di quelle che non pagano, in mezza giornata te lo fai. No, roba, è dentro e fuori. Guarda che fai fretta a me, naturalmente devi farlo fare Luca, devi fare tutti gli angolini prima eccetera eccetera, le parti grosse per le fare l'ultimatrice e il resto te le fai a mano, ma diciamo diamo una giornata esagerando. Sì, mamma mi ha detto che io lo di più, è grande, non è una marchetta antisemita di due, è grande. Allora la mia è 6 mesi, la stessa cosa, ti posso dire che ho un sacco di parti da lucidare, non l'ho fatta tutta in un giorno, l'ho fatta in due giorni io, però, perché sennò te la sono le braccia, però se uno si attenta in una giornata, anche di meno si riesce a fare. Ma tu c'hai il motore fuori bordo? La mia c'ha il motore fuori bordo. Questa no? Vabbè, non c'ha mai avuto fuori bordo o non fuori bordo, però io ho un sacco di parti, la parte anteriore è tutta piena, non è come molte barche lisce, è tutta piena di sfagomo, di bordi, eccetera, eccetera. Tanto nella parte dove ci vanno le pedane, dove metti gli scogli di serie, lì non va lucidata, no? Le pedane, ma c'è il lato per te? Ma c'è? Ci vuole la roba in legno, c'è? No, c'è le pedane questa marca, non le fate per... Come la piena d'acqua dentro, ci sono i pozzetti, io faccio il serbatoio, dove passano i campi, lì la piena d'acqua. E lì ho sta raccolta là lì, capito? Qua ci vanno le pedane lì intera. Tanto qua era lucida, lì. Cosa mi fa, sì? Ma non è così che tu mi fa la luce, io mi sbiacco tutto, quando tu fa pulita la bassa, l'ultimo acqua qua prende una di quelle spugne ruvide, con un po' di detersivo pulisci tutto. Ruvida, per carità, poi siccome me la fa la pulire anche dentro, non c'è neanche bisogno, sicuramente lì ci metteranno una buona pescare, ci mettono i pesci, perché c'era inchiostro, cioè adesso c'è qualche polpo, Grazie, quelle vanno tutti disinfestati, se ci mettono la roba, se non disinfetti ti diventa questa malattia amara. Sicuramente ci buttano le polpi dentro. E qua lì, per la mele, ci vuole una bella pulivapor, con la grassante, la pulivimere, e poi l'acqua la raccoglivi a mano, tanto, visto che non hanno aspiratore, un piccolo di giamma. Cioè, però non funziona, non aspira. E non lo sta facendo questo lavoro, Luca? A muro. Capannone l'ha aperto. Capannone l'ha aperto, sì. Cioè, se la marca è fuori. La marca è fuori. Stai aperta, sì. E allora? Allora, basta che tu abbia appena appena di quella polvere del giorno, quando piove, ti va a ridurre la vala, ma... Ah, fuori giuiso. Che buccio lì. Ma la marca li vuole un po', allora sì. Vedi, se la metto un capannone, allora sì. Piano piano la posso luciare bene, ma fuori come fai? Ma tanto prima vuoi la pasta, prima di tutto. Sì, infatti, non puoi luciare in mezzo alla sulcizia, la pasta vuole prima la pasta bene, conta tutta la terra, la polvere, non c'è solo sotto, la pastina, se no c'è una gargata. Non me la fottuta, a me ve la posso, ma se me lo chiedi a fare il giuiso. Poi la faccio dentro già pulita, sta pulita bene, ho rilassante, di lusso, proprio... E ci sta bene, guarda, non se l'aspettava neanche, ma questo qua si vuole lavoro che vuole voi, mi ha detto. Proprio luce al magno, guarda, il magno era nero, e non mette il ciclo, beh, lucido. Ah, se guardiamo, e poi, al limite mi iniziano dentro, tanto dentro ce n'è poco, noi ci assai. Beh, è stato il break, capito, Robè? È poca roba dentro, anche poi si assedere e basta. Poi lì c'è la cucina, c'è il bagno, poca fuori che è a luciare molto. Ma boh, vediamo poi, vediamo cosa fare prima. Perché se la va a fare, allora il prezzo cambia, o se la va a fare tu, avanti becchi. Vai, guarda, più. Luca, occhio, no, non graffiata, non c'è la parola che la voglio pagare. Cosa sta graffiata, già, va, lascia perdere, va. Quella marca lì era abbandonata già in una campagna, tutta piena di cose, di... non si diceva, di muschio era. Sì, niente che non è frega nulla, che non ci tiene. Oh, via, per carità. Tu qua. Il motore già funziona, ormai in tutti i giorni, basta, tu dici, intanto non fa quel motore che tu ti brucia. Ma se ti mi dà già l'assi, quelli della faccio. Non si può uscire in macchina. Come è arrivato il numero 10 mi ha dato i soldi. È salito, se l'ha guardata, trovi a mettere i piedi, mi trovi qui tu di nuovo. Bello, non se la faceva neanche, se non è la roba verde, è la verde adesso. Adesso in confronto è un'altra cosa, la tavola pulita. Ma la tappezzeria com'è? Non l'ho fatto. No, l'hai fatto nuovo, non so qua, siccome non so qua un tappezziere, quello mi ha chiamato. E sta facendo tutto nuovo, tutto, da A a Z. Cioè, parlo di... dalla tappezzeria, poi dei pannelli, tutto nuovo sta facendo. Ma il tappeto lo conosci da te? Eia, conosci? Certo. Ah? Certo, sta dicendo. Ah? Roberto si chiama. Eia. Certo, mi guarda, mi conosco bene. Ah, lo conosce Roberto? Sì. Giulia. Non lui, ci mi chiama sempre, adesso mi d'estate, adesso rientro un po' di lavoro, piazza del tende mi chiama, e vado con lui a piazza del tende. E niente, è uscita questa barca e ce la sta facendo, sai quanto un cavolo l'ha pigliato. Ma Roberto l'ha messo una bella fregatura a me, sai quanto ti arrivi là, vabbè qua la cifra non è grossa, Roberto l'ha presa una bella fregatura a me. Perché? Se già fatto non raccontare, se te lo vuoi dire, gli hanno bruciato lavoro di milioni e milioni e non l'hanno dato nulla. No, adesso questi lavori che si fa si magari. Si fa pagare, capito? Ma abbiamo fatto il desiderio dello scooter. Guarda, gli ho detto, siccome c'era qualche buco che entrava acqua, quella vecchia, gli ho detto, non me, mi raccomando, a me mi fa una gaggata. E niente, ero a fratello con Sandro, siamo andati a passare delle tende, sono ritornato. Il camerò me la sella, ma a me non è che accorto la sella è appoggiata sopra la moto, meglio non mi manca bisatto, vado. Micidiale, proprio l'ho fatta meglio di quella che c'era prima. Io la moto fa anche nel Sauro di roba di opere d'arte, me ne ho fatto solo queste linee, sapete che per lui sono giocattoli, fa cose di valore, sì. Ma lo so, fa mobili antichi, lo so, è bravo Roberto, è bravo da pensiere, bravo, il padre lo so se è bravo. Ti riconosco benissimo tutti. La figlia è sola come la figlia piccolina, e già bella la conosco. La figlia di Roberto, no? La piccolina da 4 anni o 5, secondo la figlia la l'asilo. Sì, l'ho vista però. La moglie conosco, Simona. Sì, mi conosco tutti, sono la famiglia. Sì, la conosco. Di vista, dai. Niente, noi la conosco bene. Perché era molto amica di quella che aveva al supermercato lì in via Succi, quando c'era il supermercato, di fronte alla pizzeria. La vedevo sempre lì, tutto qua. Ah, conosce Roberto, eh. Però facciamo riprendere a Mario e a Gianni, se no stiamo monopolizzando. E avanti Mario, scusa la finger pong, eh. Quando sono discorsi così, già piace anche ascoltare. Non è un problema. Vabbè, facciamo ripigliare a Gianni che così l'aiuta nella digestione. Riprendi Gianni. Vabbè, Mario, il bandantone è pieno, buonasera. Il bandantone adesso è pieno e quindi posso stare anche tranquillo. Come ti stavo dicendo, Robè, ho macchinato già fondata l'antenna. Sono venuto Gianfranco in California, troppo di lusso è stato, veramente in gamba, è passato da me, me l'ha portato all'officina, anzi ti posso dire, non ha più il studio, poi è andato e me l'ha portato su lui da dove l'ha presa, è stato veramente in gamba. Nel palo dove c'è la televisione, c'è la gran prima piccolina, alla fianca, un paio di metri c'è la multibanda. Devo vedere se portare il palo della televisione e mettere un palo unico grosso per la mantova, e poi metterne un altro per la televisione. Ah, ma te l'hai già comprata, Robè? Me l'ha portata a Franco, sta ancora all'officina. Che te l'ha fatto poco impressa? È arrivata avanti ieri, è stato un fuoco, infatti sono rimasta a bocca aperta. Quanto? 100 euro? Di meno, molto di meno. Eh? Meglio così. Ricordate, sono andato a piazzare a chi ha la Claudio, mi Claudio ce la sa regolare bene. Claudio Avulli, anche se c'è il coso, a me mi stava fregando, La piazzarla sembra facile, ma non è facile, Robè. Guarda Luca, io ho già tre piazzate, ho messo tutti i distelli, devo fare le ultime cose, ho messo la spirale, ho messo la 7 cm, ho visto, dubbi non ce ne sono, diciamo, una volta che ci metti in mano è abbastanza semplice. Gli unici dubbi erano, ho messo il vulcanizzante o no? Comunque ci sono passato io, c'era l'officina tua, avanti ieri, o ieri, no, ieri sono passato, ieri, la tua macchina è bianca tagliata a Roma. Staffa, non ha buon fuoco, non ha buon fuoco, non ha buon fuoco. Ah, non sono un incendiario io, sono svegliato. No, sono passato lì, tutto qua. Ho visto la macchina fuori, ma la luce, eh? Vabbè, la luce è tutta ben chiusa. Vabbè. Sì, già. E cosa devi vulcanizzarla, perché se fai quella roba lì, ti si mette di acqua e... Tant'è, ce la butti via poi, sì, è stazionale, tutto qua. Capito, la bella nelle agricolture, sia nel fondo sia dove sono i tagli che entrano dentro tutto quanto i bulloni, perché se tu la devi smontare, così almeno è bella vulcanizzata. Io credo che volevo fare già pure. Ma tutto, io metto tutto la vaselina all'interno, proprio piena la vaselina, in modo che se si deve smontare viene bene, non si uscita l'alluminio, e poi li metto sopra il vulcanizzante. E così non attacca però. nome con lo trasparente, lo lascia asciugare e poi lo metti vulcanizzato sopra e poi sopra vulcanizzante nastrato bene, con un nastro nero. Vabbè, che bisogna c'è mettere un nastro nero se ci metti vulcanizzante? Perché vulcanizzante non avvilisce subito. Li metti sopra vulcanizzante la zona e lo porti nel mano attaccato di modo che si vulcanizzi bene. Ah, solo per tenerlo appoggiato, no? Non ha nessun'altra funzione. Certo, per tenerselo, no, per tenerlo ben attaccato si mette la pesante. È un bel po' di passate anche senza risparmio. E poi la punta ti consiglio di mettergli un po' di silicone, perché a volte si seccano, con le punte si spaccano e spaccandosi entra acqua. Scappa, quello ci ho pensato anche io, perché è una plastica col sole, si secca e si grizza. Oh già! Dimmi! E dove si spacca? Sopra, si asciuga, no? Quella plastica che c'è in punta. Ah, la stella stai dicendo? Esatto, quello che ti ho fatto tagliare i culi, i raggetti, là. No, io, cioè, loro usavano piazza. Come si fa a tirarla con uno spago? Allora, due si mettono sotto il tubo. sono un metro di parasotto, ci metto un palo, diciamo da 3 metri, e lei sono solo 2 metri. Ah, però viene complicata, mi sembra. Quanto la fate complicata? Perché? Dice la tua cosa lì. Ma poi devi tenere l'antenna, ma poi devi tenere la Torre Eiffel. Ma già, guarda, dico solo questo. Si può dire l'antenna me l'ho piazzata io, perché loro me l'hanno piazzata sotto. Ma l'ho vulcanizzata, poi me l'hanno passata. Si può dire che faccio tutto io. La mano va via, la sono smontata, piano piano, arrivato quella fase, però ho montato poi, gliel'ho passata a loro, anzi bugia, mi è caduta, si è piegata, si è spezzata, perché non ce l'ho fatta a tenerla, meno male che non ho spaccato le tegole, però la tegola è piazzata, è leggerissima con l'antenna. Sono Luca. Ehi, io al problema di cosa non andate, ne ho piazzato una, in due, un'antenna di FM, di 13 metri erano, 4 sul lineare, 4 di soli, e un'antenna con un palo da 13 metri, ma eravamo tutti tirati, sopra e sotto, siamo riusciti a metterla. Tu Roba, sei un terrazzo, già ti viene bene, perché in piano, ma se sei sopra le tegole ti viene un po' male. Ah, sono interrato, non mi preoccupa, guarda, secondo me è abbastanza semplice. Vedi tu, comunque se qualcuno ti vuole dare una mano, viene da là, non è che le costa niente, cioè se, non so, dipende da quando la vuoi piazzare, e se la vuoi piazzare domenica, ce lo facciamo un salto, io e Claudio, c'è problema, viene anche Franco, se vuoi venire Gianni. No, non c'è problema, grazie dell'ascolto, però già c'è un amico che se ne occupa anche lui di queste cose e dà la mano lui, non c'è problema, grazie come dice lui. Non c'è problema, quando si può aiutare una persona no. si ricade a sé per favore. Avanti, boh, vi è rimasto Mario. E la cura, meglio di Rumelli. Tutti mi azia, cur chiamate i Rumelli, boh. Perché siete troppo lunghi, cioè mi piace ascoltare, ma ascoltando invece stavano tirando gli occhi. Vabbè, dai, ci compresi, siamo una mimmula. Prima di una massima, ma una mimmula. Stavo scherzando, allora, ma comunque c'ha ragione il Cosmi. Cioè, c'è stato per mettere le mani e quello che deve fare. Cioè, non mi manca un pezzino di rumido, così che... io dico che si lascia con chi dà cosa, solo col pensiero. Ma molte volte, Mario, secondo come il testo, ti viene male da solo, ma in due, ti viene male. Tipo da me, diciamo che, insomma, mi è venuto bene nel punto dove l'ho messo adesso, se no, se la rimettevo male dove c'è la canna fumaria, un casino nero. Quel motore lì l'ha fatto il italiano a me, era motore di cespugliatore, dirà a me. Poi ci avevamo messo un alternatore di macchina, che per un po' è andato bene, dopodiché quando attaccava il coso si spaccava la lampadina perché dava più di 15 volt su lì. Ma dirà a me, che te lo ricordo bene, se ricorda bene anche Mario. Era un motore di sì, Mario, praticamente con questa corda qua, la legava, cioè la legava, faceva passare la campana, tirava e metteva in moto, era un motore di sì, no, io mi metto che era un motore, cioè mi ha messo, era un motore di o di sì o diciamo, ero a tesi, bravo, è uguale, era quello, no, non lo capisci un laggapo, era quello, il motore, oltre la dietro pure c'era, mi sembra. Specialmente al fratello non mi dirò un consulente, non mi metto a terra. me, meno male. Mi ha dato che ha lavato là tutta la roba. Non lo sai che sto parlando mai. Io purtroppo non mi ricordo. Stavo pensando. Da quando c'è tutto quel casino, non me ne sono preoccupato. A voi. Ed ha fatto il padrone, ha fatto tutto quello che voleva lui. Sei tutta la fischia, Antonello. Ah, sono lui, schizzo. Dai, davanti a trovare un coso di... Quanti li chiama, le dici... Ma, le matricole. Papu, ricordati che anche tu c'hai un peccato da piangere, mi. Però credo no, che c'ho un peccato da piangere io. L'unico peccato che sono andato maschio, ho pensato a soffrirmi la guai. Me l'ho fregato, beh. No, fai mente locale e ricordati che anche tu ce l'hai un peccato c'è da piangere. Vabbè, fatti gli aggagliati per Malù, eh? Vai, da peccati da piangere. Vabbè, domani vado in chiesa per quello e chiedo a vedere, aspetta quello di cosa, che non è stato perché peccati ciò. Ricordatelo che era Colori, che è arrivato lì in campagna e poi è stato imbarrato ed io non facendo manco visto, però io quando sono andato a negozio l'ho comprato con i soldini. Ah, televisore, stavi parlando, mi chiedo sapevo che mi chiedo quello, ma è buchi, cosa sto dicendo? Sì, per il televisore è stato parlato di campagna infatti, poi non è una cosa andata, non si fa più a niente, c'è stato che a me, ne avevo dato uno, poi cosa posso dire? Un tipo di televisore che sono un po' sensibile, capito? Basta un niente e si crepano. Il mio non bastava un niente perché ce l'avevo un po' di tempo, ce l'avevo un annetto e poi è andato a finire a rotoli. Intanto mai a Mancaroni. Che è vero, guarda ci sono anche a me comunque, mi hanno legato un capito da colori, Franca, e poi è andata a Rotoli, capito? Sono troppo sensibili, non sono una cosa all'altra, basta lo sguardo di tensione, boh, sono troppo cippetti, in quei televisori così sono troppo cippetti, basta o niente, mi stanno ben attenti quei televisori che sono vengono 5, 6, 10 anche. Capito, basta un niente, non sbatto di tensione, boh, fotti due televisore. Ma io quella là, io ce l'ho a colore, così, piccolino. Io non ce l'ho niente. Quando uno c'ha la coscienza a posto, al paese che non è mio perché altrimenti me lo avrei venduto, dicono che chi rompe paga e si piglia i cocci. Però che è vero. Era dentro il tubo, risultava dentro il tubo perché era più in banda, dove l'hanno chiuso, secondo me non si ferma così, e così l'acqua non c'entra niente. Ma diciamo che l'umidità sempre c'è. Ma sono lì che bisogna essere tutto praticato dopo che ho messo il PL. Io gli ho messo anche silicone, gli ho messo silicone trasparente e poi gli ho messo sopra sempre il coso, il vulcanizzato. Però il silicone ho visto non è affidabile, a me il silicone è proprio ce l'ho io, perché ho misurato delle prove sugli impianti d'antenna. Non si va nulla, perché tu si trova l'umidità interna, sono questi riconi nuovi che la tira l'umidità e adesso più che mai. Beh, ma io prima di mettere il silicone ho messo il coso, vulcanizzante, poi c'è per vulcanizzante il silicone. Ah, così? No, pensavo il contrario. Io mi metto sotto all'interno del PM, la metto in centrale, tutto bello pieno di vasellina, poi lo stringo bene e li metto sopra il vulcanizzante. Ne ho fatto di impianti di tanti anni fa, ne ho fatto uno da poco, ho fatto 15 anni fa, era integro, pulito il cavo il PM, la vasellina. Adesso devo messa anche io la vasellina. Se guardate mi sta sempre lubrificato che non si formi con la patina di ucido, sennò è finito. Se stanno bene durano nel tempo, se stanno... fanno male ne vanno da pezzi in presa in presa, perché comunque se uno non vasellina gliela mette non è vero che non attacca, chi ha detto che non attacca? Col tubicino nell'espulso appena appena dentro lo avviti così, poi se ce l'è se si sparge dentro e non gli fa nulla. I pinetti rimangono unti di vasellina, poi li metti sopra tipo coso, gli fai la fasciatura con vulcanizzante e niente. Poi se glielo vuoi mettere un pezzettino di lato, perché adesso c'è freddo, ossia che non attacchi bene, io quando l'ho fatto io e l'avevamo in piena estate, come se ne fosse vulcanizzato, ma se ne state a casa sicuro soli, non riesce a subire un bucanino, e così che niente, e funziona tutto bene. Poi, io dico sempre questo, quando uno si fa la cosa per sé, sempre più controllato, quando la fanno gli altri devi andare a controllare adesso l'hanno fatto bene, vero Roberto? Confermo, però quelle cose sono molto, io le controllo bene, anche le rifiniture, quando faccio nel cavo, tutte le faccette, ho messo tutto ordinato, non so quello di qua la padula che fa disordinato, io di carattere sono molto ordinato. Sì, questo ce lo sai, ma non mi interessa, non sono fatto. Sì, addirittura c'è un film che prima di andare al cinema è andato su internet. Scusate, ma non c'è un nome d'altro. Come ha scaldato? Ma come è stato il segnale, Roberto? No, più o meno lo stesso, no, non si dice, se dai. Scusa, di tipo tubo d'acqua. Ma non fa a mettere male in cocco, che si spettano come più fino, come c'è la forzatura che c'è lì, si spettano. Avanti, avanti. Mario. Sì, sono qua. Allora, sono qua. Ma oggi l'abbiamo pegata in giro a parlare di antenne. Pulito per lavarsi le mani, infatti poi se ne è trovato male perché lo sapevo. il motore, pompevamo l'acqua sopra e poi l'acqua ci andava dal rubinetto. E io, da pompugno, cioè, mi piace a me stare facendo quello, cioè non è che sono una mummia, rimane fermo, hai sentito tutto l'altro dall'asse. Accendevamo il fuoco, subito se c'era qualcosa da sciacquare si sciacquava, si preparava il pesce, allora ci facevamo certe mangiate di sardine, semino a non finire, bistecche, e cos'è che non abbiamo mangiato in campagna? Abbiamo fatto di tutto e di più, è vero. Avevo messo la luce, ho fatto l'impianto elettrico con quel cavolo di motore, ho fatto tante cose, però a me non è che lo dico così, ma lo dico perché mi piaceva fare, cioè cercando, anche se essendo in campagna, cercando di avere qualche piccola comodità. Avevamo fatto la presa per il baracchino, per attaccare il baracchino, avevamo messo l'antenna, naturalmente io su mano dell'antenna un po' che tira ronco, vari un corso, per carità, eppure abbiamo fatto tante cosette che aiutavano a stare bene e in compagnia con gli amici. Pensa che quando ho costruito il palo, la terra del baracchino, mi ha detto che era troppo lungo, che non riuscivo a portarlo su, che era sottile, che era quello, che era quell'altro, a me adesso l'ho piazzata dritta. Vabbè, e quanti tiranti da mettere? Sì, tiranti, perché ne abbiamo messo tre subito sotto la punta dell'antenna, là dove innestava l'antenna, e altre tre a mezza altezza, invertiti praticamente, in modo da non incrociarsi uno con l'altro. Cappala, ho capito. E io gli ho messo 10 tiranti. Io sono da parecchio senza sentirlo. perché l'ultima volta che sono passato mi ho salutato a Mandarino Gossuccio e dentro però non ci sono entrato perché stavo passando lì col camioncino e mi sono fermato a salutare, basta. Diciamo che non... scambiavano due chiacchiere, boh, a livello così, a livello. No, ma tu sei in qualche attività, ma la Maria è più grande di te. La Maria è più grande di me, un me è più grande di me. Però non so quanti anni c'è, tu non ho un'idea, amico, molto ricco, quanti anni c'è, se sono solo di sotto? Io, 53. Ma sei giovane allora? Grazie. Comunque, ancora mi muovo bene. Soltanto ancora, la Maria quanti anni va? Vabbè, non è un vizio, no, uno a 60 anni non è un vizio. Ma se si vuole muovere lì, mi pare il nonno confronto a me. Vero? Cappa. Cos'è Giulio, lo stesso Giulio non lo detto la grande. Cappa. Se no per tua sale di tutti, va. No, il più anziano credo che sia Mario Mao. Non l'ho mai sentito io. Ma anche Luna Rossa. Ancora, io ho sentito, allora, il conoscimento è tutto qua. questi due che mi stavano attaccando. Noi lo chiamo attori. Aspetta, che cosa? Perché uno ha fatto il break? Ha detto che il break ci deve andare a 27, no, questo l'abbiamo attivo. E questo è la risposta. Guarda che break vuol dire un attimo. Infatti kilo anziché 500 ohm come l'originale, non vorrei che cazzo fate serale, infatti l'ho trovato no, un pochettino con mitigante. Sì, sì, dovrebbe essere, mi immagino amplificato perché c'è la batteria, non è una cosa invece della guerra. No, è già stato al massimo, non posso sollevare di più perché se no si usa in blocco l'ascolto, non sento, c'è cioè, tanto mitigando l'ascolto dall'apparato, non sento più l'audio. Sto dicendo, il microfono non è adatto per questo apparato. L'altro giorno stavo cercando un componente per un televisore con amico che me lo stava riparando, ma nessuno ha fatto, scusate, non avevo la busta, mi hanno detto tutti, vai dimentica che neanche a parlare, e guarda dove aveva una busta Antonello. Fino a un paio di anni fa mi sono fatto, non dico, avrei fatto un po' di soldini. Sì, ma adesso con la TV digitale nessuno ne vuole più di questa cosa. È come la macchina fotografica. Io non so se tu abbia la passione della fotografia, ma io ho una mamma mia. Ho una mamma mia che voleva... Se un corpo macchina costava 500.000 di quella macchina lì. In più c'ho uno zoom che costava 350.000 lire. In più c'ho un randango che ne costava altri 260. Insomma, ci sono roba di milioni. Se vai a vedere la macchina di Cina. E così, insomma, la tecnologia hanno fatto di meno i prezzi e non valgono più niente. Adesso c'è la macchina digitale, hanno diminuito tantissimo i prezzi, oggi sono stati tenuti da una fatta. Ma io quella lì non la cambio manco. C'è uno zoom 70-210, ti puoi immaginare quanto avvicino. Aspetta, è una bomba. C'è un grandango che fa... almeno usavano i periti di assicurazione per fare le vicine, le foto molto vicine per la macchina. Io ho avuto sempre la faccia della fotografia, perché ce l'ho. No, io c'ho la macchina, tu vai ti metterai a ridere, io sono una Zenith, proprio la prima volta sono venuti i russi a Sassari, a vado con l'acqua, i russi hanno preso tutti gli accessori, da c'ho anche un 300, un 100, un paio di grandangoli, tutti i 14, hanno pagato 3 lire, ma fanno le foto eccezionali. Ma ti posso garantire, pochissime macchine ho visto che fanno foto così. Ma a me lo felice, l'ho avuto anche io la Zenith, che c'ha le 20 in Zenith. Infatti volevo concludere il discorso, ma la fabbrica della Germania si lo facevano, ma nella Germania non si facevano le drive, le car drive, queste erano della Leica, tra le lenti, c'ha una luminosità, non ricordo mio, c'ha la Nikon, una macchina costava una marca di soldi, non era luminosa come quella. Se ti faccio vedere se cazzo un giorno delle foto fatte con quella macchina rimaniamo per sempre. Ah, lo so, perché lo so anch'io, ho tutti i pezzi, sai che cosa mi si era attaccato? Hai visto quella retta che è presa la pellicola dietro che ci ha attaccato lo sportellino? Ma guarda, lo stavo dicendo io, perché quelle macchine lì devi stare attento quando le vedi, perché hanno preso un po' di colpi, ecco. Io quando l'ho presa, erano appena arrivati, era nuova fiammante, proprio, io ho quella con le batterie, tiene presente, che hanno l'esplosivo però con i lenti. C'era quell'altra totalmente banale, però quella non l'ho presa, non mi piaceva. Ho capito quello che c'è, l'ho avuto anch'io quella che c'è più o meno, che c'è della lucetta rossa. Ah, fa quella lì, ti sto dicendo, fa delle foto sotto qua, mi dirai che non avrai i 2000 millimetri, come si dice, cioè le posizioni sempre velocissime, quello non è, non ha, però se vuoi fare foto normale, va più che bene. La mia c'è anche il moto di ripetizione, secondo me. Tu stai già parlando di un apparato già semiprofessionale, la mia era un giocattolino, però fatto delle foto, ti posso dire, veramente belle, luminose. La mia è la mamma qua. Ah, la conosco solo di nome, però non ce l'ho presente. Praticamente quelle singole fotografie sono rimaste in voce. Quindi una macchina già di un certo livello. Ecco, se c'è solo il corpo macchina, senza... perché la mia macchina fotografica, prendeva solo il corpo macchina, nemmeno l'obiettivo ti davano quando la compravi. Poi compravi 50 mm a parte, e tutti gli altri obiettivi a parte lo stesso. Quello di alta gamma fanno così, ti danno solo il corpo e poi ti prendi tutto quello che vuoi. Che gli affari la vista, la roba che gli ho comprato. Vai, lei. Maria Sassa. Ah, Maria. Sassa, Maria. Sì, sta dicendo, questo microfono che sto utilizzando adesso, come è stato, cosa fa? Rumore o non si sente niente? No, ma si sente bene, come la radio, ma non c'è la mano amplificata. No, ma dico lo sacco, si sente tac, non fa rumore. No. Qua si sente proprio, non so se l'apparecchio che è in bomba, fa tac, quando molla. Ma cosa avevi che scatta nell'apparecchio? Tu vieni mai? Io già lo sento, però quando schiaccia la portante, fa una specie di stacco, fa. Adesso non so se è il tac. sbaglio quando preme che sbatte da qualche parte o se proprio non stacco del microfono. Ma non sai cos'è Mario, perché questo tasto è un bel duro, infatti chi non mi piace questo microfono è troppo duro il tasto per premere. Io l'ho avuto con la in quinto, quello lì da casa facevo cerchi di ex, ma mi tutti mi entravano, solo ci offendo, si tratta di abbassare il microfono. Kappa. Ma quello lì, io secondo me direi che quello lì conviene sempre tenerlo sotto controllo, però non rilanciare mai, tenerlo solo sotto controllo. Un'ora prima di scadere il coso, gli fai un piccolo rilancio, ma non molto, di un euro, in modo che il prezzo rimanga basso, perché se rilanci molto, magari c'è il padrone dietro che rilancia un bel per venderlo a un prezzo più alto, capito? Sì, ma se fai come dici tu che non le cose le lo ritira. Che ha partito da quella cifra, però metto il prezzo di riserva, praticamente sarebbe il prezzo che lui vuole ottenere. Chi è che mi stava dicendo che Claudio è riuscito a pigliare il BV 2001? Non lo so. Qualcuno sta cercando il frequente dicendo che ha visto che il coso del BV 2001 è riuscito a aggiudicarselo Claudio. Se non sbaglio per una ventina di euro mi sembra, boh. Ah, vero. Verificatore. Sì, 600 watt. Sì, ma bisogna vedere sempre com'è, è sempre un rischio. Vabbè, ma per 22 euro cosa vuoi? C'è uno spirito pure. Io ho avuto Giambaristocrate, secondo me non finne. Vabbè, quando modulava spegneva tutte le luci. Che servimento aveva? Sì, mille watt ci aveva. Kappa, sono mille watt. Un kilowatt. Kappa già lo so già. Non me lo dire a me che già lo so. Ma che c'è la volontà che non ci vuole per parlare? Che cosa? No, va 220, evaporare. Ah, valvolare, non era transistor, però ci vuole che cosa? Hai notato la 50 ampere? No, ci vuole solo la corrente. Sì, ma se tira fuori un kilowatt, ma sembrava almeno un kilowatt e mezzo. Io ti sto dicendo che io lo usavo solo alle 2 di notte, alle 3 di notte, per fare gli ex con fuori, no? E come lo accendevo, avevo la baggiura accesa e tutti erano già a letto a quell'ora, qui non rompevo la scatola nessuno. Si abbassava la luce di colpo. Ma dimmi una cosa. Oh? Io adesso stavo facendo solo da M. C'è qualcuno che utilizza lo FM nella banda CD? Per dire, se vai in Germania usiamo tutti le FM. In Francia. Sì, no, sono scavo e l'ho sentiti. Sono tutti lo FM, però dico qua a Sassari. A Sassari non lo so. Solo che avete mai utilizzato la trasmissione della FM? Sì, certamente di sì. Sì, in realtà che ho maggiore definizione, maggiore fedeltà del suono. Diciamo che devi lavorare con lo squelch di solito. Lo squelch a metà, devi avere un segnale forte e non senti rumori, non telefonando. Ah, così però è molto meno potente il segnale, arrivi molto meno. No, non è detto. Più o meno dagli stessi slatti, qualcosa in meno. Anche la banda laterale ha quel suono, cioè c'è un'altra frequenza, c'hai cioè spostamento di lui. La banda laterale c'è un clarifatto centrale, è presente le radio antiche, quelle che facevo. Sono guardando, non un bel di radio antiche, io sono collezionista. Ecco, ho fatto il rumore lì, quando tu lo senti si sente la voce, ma anche se non è ben chiara. Sì, ma dico, ascolti qualcuno fra in città. Sì, fra gli ex confuri, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, cosa ti posso dire? Sì, dico, ma qua in città non è venuta di sicuro. Sì, io sono in DX. Ma è lungo di parte, dico, per fare collegamenti a lungo di parte. Ma è rompe un bel quella banda lì, perché se tu parli nel canale vicino, quello del canale vicino non capisci nulla. Ah, sì. Non sono, cioè, ci vuoi patentino per fare quel tipo di lavoro? No, non è negativo. Se puoi utilizzarli con un apparato normale, cioè come un CD normale puoi utilizzarlo. Ma è sempre un punto interrogativo, cioè le barattere si possono usare perché fanno anche gli apparati omologati con le bande laterali, quindi. Non so niente, non ti posso dire niente. Poi questo cos'è? Quello è l'SSB, quello lì è il bando laterale. Poi SSB è l'SSB. LSB è USB. Sono bande laterali quelle lì. Sì, aspetta. Comunque sì, dai 40 canali, poi basta. Ma infatti poi ci sono barattini, ho visto 120, 200 canali, ma quelli sono fuori lenti. Certo. Ma quasi non va a giocare, allora, se sono fuori, sono so che sono, non c'è nessuno che ascolta. Gli accessori che ascoltano. I dati ce ne sono sempre. Mi diciamo, qua stiamo utilizzando il canale 10, siamo non tantissimi. Dico, figurati, non basta guardare il canale 200, chi c'è? Nessuno. Non è detto. Sono persone per dire... Due fidanzati, non ci vogliono far sentire qui, se ne va sul 400 e non li sente nessuno. Aspettate che il mio figlio sente mio figlio, quella legge è un atto lì. Gappa. Ehi, che ce ne sono. C'è tanta di quella gente nella frequenza. E noi non ne abbiamo idea. Oh, comunque adesso non guardare ora, è molto calmo e molto rilassante. Anni fa i 40 canali erano sempre tutti pieni, ma non con poca gente, no, una marea di gente c'era. Sì, quando la macchina io, vabbè, c'erano 23 canali, ma non ricordo che era sempre pieno, c'erano amici che l'avevano, era sempre pieno di gente, però era la maggior parte della gente abusiva, senza le concessioni delle gente. No, quello già è vero, ce n'è sempre stata gente pirata in tutti i sensi. Se mi davano un barattino e trasmettevano, magari il barattino disturbava, non era fatica di nulla. No, quando disturbavano già erano perseguitati ugualmente, lascia perdere, perché allora bastava che avevano una telefonata, non andare a fare l'esposto, no. Passava una telefonata e l'indomani ce li avevi sotto casa. No, non sto parlando in pronto, in fissa, no? Non sto parlando in macchina, non vedi niente, turbulina. Autoradio non c'è male, ci va a trovare malattia. Sì, ma l'indomani ce li avevi sotto casa. Volevi volare ce li avevi sotto casa perché andavano lì e cercavano di individuare la situazione, capito? No, a noi quando avevamo la radio, la parola l'abbiamo tenuta pochissimo, venuto all'escopo, hanno controllato con tutto il furgone, hanno fatto tutte le misurazioni, c'erano delle apparecchiature che noi ci sogniamo, ma non l'hanno visto dentro. Già li ho visti già, ma perché quando sono venuti erano salite antenne, spessori, alimentatori, erano salito poco di roba, e poi hanno fatto un buco nell'acqua. Allora se ti vogliamo trovare stanno il radiodronometro, girano, puntano, con misuratore di campo ti dice 15 gradi al nord, vanno direttamente, senza guardare l'aumentare il mondiale te lo trovano sotto, non sbagliano. E capo, già lo so. Beh, che l'abbiamo fatto con me ieri, mi sa che dovevo andare a nanna ieri, la stanchezza è un bel. 11:15, è un tardetto per me, io la domani mattina lavoro, non so tu. Anche io lavoro, va. Adesso vi saluto e me ne vado tutto qua, 244, cioè con i piedi dalla culla, che è Emilio. Ciao Roberto, buona giornata per domani e buon riposo. Ciao Gianni, se mi senti, buon riposo e buona giornata per domani anche a te. Ciao ciao. Amaro, vi fanno i saluti e buon lavoro anche a te per domani. Ciao Mario, ciao. Io comunque lavoro anche di sera domani, se vi può far piacere. Ciao Roberto, buonanotte anche a te e buona giornata per domani. Ciao ciao. Guarda la prossima, ciao. Ciao, alle prossime. Ciao Mario, ciao.